Parti lontano per non ritornare e non rifare in occhio stusciatoni. Ma sai lontani idea non posso stare, nemmeno se mi taglino a quaccioni. La nostalgia m'afferra ad ogni lato e mi incatena come corpo vivo. Mi sento unico e disolato, un ciciletto solo dentro un crivo. E non c'è balsamo e non ci sono mistori, come non ci sono sforzi e manco presi, che posso non lasciare sto calore e farmi scordare do paesi. L'affetto alla mia terra è sacro amore, cavalecchio d'un feo di marchisi.